Bene, allora grazie a Giuliana Franchini che è qui con noi e che ha proposto questo tema quanto mai attuale. Lo abbiamo pensato proprio di inserirlo in queste giornate che ricordano chiaramente la giornata di ieri dedicata alla violenza contro le donne. Ci sono tante attività, tante iniziative e la biblioteca da sempre promuove e sostiene anche questo tipo di messaggio, tant'è che abbiamo anche molti libri, una bibliografia nutrita, e con grande piacere e riconoscimento abbiamo di nuovo con noi Giuliana Franchini, che questa sera parlerà appunto dell'amore dannoso, che sembra un controsenso, però purtroppo è così, la realtà è questa. La ringrazio, vi ringrazio di essere così attenti a questi temi e soprattutto vi ricordo che si possono anche riascoltare, o se volete promuovere questa iniziativa anche successivamente, viene registrata e quindi può essere riascoltato, perché è un tema talmente importante e utile da conoscere nei suoi rischi e anche nelle sue avvisaglie, per cui lo vogliamo registrare questa sera e lo metteremo a disposizione sul sito della nostra biblioteca, dove si potrà riascoltare comodamente anche dal proprio cellulare. Ogni volta che facciamo un'iniziativa io faccio sempre gli spoiler, spoilerizzo e faccio gli spot delle nostre future iniziative, e questa la settimana di dicembre avremo di nuovo con noi Gabriele Dalla Serra, che ci parlerà del colore del nero, cioè di tutte le sfumature del nero, e quindi sarà una conferenza a metà strada tra la musica e l'arte, e ci porterà a conoscenza anche di un artista che non c'è più da qualche anno, Pierre Soulages. Vi invitiamo tutti, abbiamo già fatto alcune conferenze di questo tipo negli ultimi mesi e sono sempre state molto gradite anche dal pubblico. E poi inizieremo un percorso di due incontri dedicati alla fisica quantistica e alla conoscenza, anzi per la verità sono due, il secondo e il terzo, rispetto a quello di ieri sera, dove abbiamo parlato in termini metafisici della possibilità di scegliere che all'uomo e di individuare il nuovo. In questo senso forse si riallaccia anche la possibilità di scegliere, no? Oggi come scegliere consapevolmente, come affrontare anche dei cambiamenti quando è necessario e forse non abbiamo sempre il coraggio di fare. Quindi questi due appuntamenti che vi volevo segnalare saranno il 9 dicembre con Le onde di materia di Leonardo Colletti e Franco Caccialli, e invece poi il 10 di dicembre ci sarà di nuovo il professor Giorgio Dobrilla, che ci presenterà il suo nuovo libro Saggezza in caduta libera, punto interrogativo. A questo punto vi ringrazio ancora dell'attenzione, ringrazio soprattutto la nostra ospite, a cui cedo la parola, ma mi dicevi che c'è anche la presidente Schia, assolutamente, vero? Sì, è un onore, è un piacere. Il microfono e ringrazio anche della sua partecipazione. Grazie a voi. Grazie a tutte, io in realtà saluto solo perché con orgoglio l'Ordine degli Psicologi ha dato il patrocinio a questa iniziativa, dove è importante la presenza, insomma, della psicologia quando si tratta di temi di equità e di violenza di genere. Cerchiamo di sostenere tutte le iniziative a riguardo, la prossima volta daremo anche gli ECM se è possibile, insomma, perché è importante anche che i nostri colleghi acquisiscano crediti formativi e si formino sempre su questi temi dei quali non si parla mai abbastanza. E giusto ieri c'è stato ovviamente tutta una serie di eventi, in particolar modo il Consiglio Nazionale dell'Ordine ha partecipato alla Camera dei Deputati per segnalare di come la violenza di genere non sia mai un evento singolo che succede a una persona rispetto ad un evento singolo, ma si tratta proprio di un sistema che affonda le proprie radici in una diseguaglianza storica fra il potere dell'uomo e il potere della donna, e quindi è importante andare a riconoscere, ad intercettare tutti quei segnali che rappresentano questa alterità e questo scambio di potere, che ci consente anche di capire bene cos'è violenza e che cos'è conflitto. Il conflitto è un litigio, la violenza invece di genere affonda proprio le sue radici in una disparità di potere che da sempre è appannaggio degli uomini. E quindi ragioniamo con Giuliana Franchini, non voglio rubarle altro tempo perché sono curioso anch'io di sentire quello che dirà. Grazie a tutte e a tutti di essere presenti. Grazie. Allora, direi che posso iniziare e inizio con questa cosa. Adesso scusate, ma devo manovrare. Si sente poco, cambiamo il microfono? Forse si sentiva più col tuo. Forse per via del mio vocione. Il tuo vocione. Questo facciamo vicino. Tenendolo vicino magari. Mio marito dice che urlo quando sono arrabbiata. Non fa testo. Non fa testo. Allora, sì, volevo partire da qua. Vediamo se parte. Proviamo a spegnere la luce, cosa dice? Sì? Può andare? Ma lei ci vede? La relatrice. Io ci vedo, sì, sì. Tanto. Poi c'è una bajou qua, magari. Quella può rimanere. Prego? Quella può rimanere. Sì, sì. Fa atmosfera. Sentite? No, mica tanto. Però conosciamo la canzone. Conoscete la canzone? A Brescia l'hanno cantata l'altra sera. Possiamo cantare? Questa volta cantare. Silvana, la tua voce? Non sente niente? Abbiamo anche la cantante, lui è un musicista, abbiamo la cantante, oltre al presidente, ma canta, tutto. Solo te, non ti perderò, non ti lascerò, se cercare nuove avventure. Vedo che la sapete, brave, brave, bravissime. Questo denuncia anche un po' la vostra. Allora, si denuncia un po' diversamente giovane, d'accordo. Perché se leggete le parole intuite che è un amore esclusivo, no? Totalizzante, no? Solo te, non mi perderò in altre passioni, interessi, no? Quel che resta della mia gioventù, assoluto, totalizzante, ok? Ma allora, cominciamo dall'inizio. Io lo so, questo tablet. Cominciamo a capire che cos'è l'amore, almeno quello che dice la Treccani. È un sentimento di viva affezione verso una persona che si manifesta come desiderio di procurare il suo bene e di ricercarne la compagnia. Poi, se volete approfondire un po' di più, possiamo andare a vedere cosa dice Sternberg. Lui mette insieme l'intimità, la passione, l'impegno e la decisione. Io mi soffermo sempre sull'ultimo, l'impegno e la decisione, perché implicano il presupposto che si decida di amare qualcuno, di mantenere con dedizione questo sentimento, e dentro a questo però ci costruisce una relazione stabile e che veda anche, che inserisca anche la progettualità. Ok? Quindi questi sono i punti di partenza. Quando preparavo questo incontro, mi venivano in mente tutti quelli che erano i proverbi un po' della mia infanzia, adolescenza. Chi dice donna dice danno, donna al volante, pericolo costante, quell'altra, donna ridarella o santa o puttanella. E allora mi dicevo, ma che strano, non esiste il corrispettivo maschile. Cioè, uomo col cappello, pericolo, flagello, non esiste, no? Cioè, mi sono venuta in mente adesso questa cosa. Ma il corrispettivo nel mondo maschile non c'è. E allora queste cose venivano definite come proverbi. Io lì ho usato un altro termine, ho usato pregiudizio. Cioè un giudizio che viene prima e che quindi in qualche modo inficia il pensiero. Ma da dove partiamo? Partiamo col pensare che la nostra cultura è una cultura strapiena di pregiudizi e che quindi se il problema della violenza di genere è un problema culturale, è un problema educativo, dico io anche, aggiungo, nasce da qui, da strati e strati di storia. Non vi preoccupate, non è che parto da Platone e stiamo qua fino a domani mattina, però un po' a volo d'uccello mi piace raccontarvi delle cose perché non le sappiamo, non ce l'ha mai raccontate nessuno. Allora, Aristotele è quello che diceva che noi siamo dei maschi mancati, ma la cosa interessante è che la donna è un maschio sterile, perché chi ha la potenza generativa è lui, noi non facciamo altro che da contenitore, punto. Grande pensatore lui, eh? Lui non era di meglio, Platone. Platone ci dice che il nostro corpo è una degenerazione fisica, ma guardate che interessante, gli uomini, quelli retti, se si sono comportati bene, ritornano ad essere uomini, ma se si sono comportati male, ahimè, la pena è quelli che verranno trasformati in donna nella prossima vita. Quindi è una pena terribile quella che gli spetta. E poi ci abbiamo questa roba qui sul collo, no? Moltiplicherò i tuoi dolori, le gravidanze, con dolore partorirai i figli, verso tuo marito si indirizzerà il tuo istinto, ma egli ti dominerà. Quel dominerà lì attraversa tantissimi secoli, cambia di bocca in bocca, ma è un concetto che attraversa. Adesso qui c'è un paio di personaggi che sono molto simpatici. Allora, lui è Epifanio di Salamina, è stato uno dei primi vescovi della Chiesa ortodossa. Le donne sono di razza debole, indegne di fiducia, quindi gli uomini non si possono fidare di noi, e di mediocre intelligenza, no? Andiamo avanti. Lui è Jacopo da Varazze, bravo ragazzo anche questo, ma questo è interessante il concetto, il marito deve amare con moderazione, un po' di controllo, insomma, mica così fino alla fine, no? Deve trattenersi, ma invece la moglie che ama perfettamente deve essere quasi accecata da questo sentimento, ok? Deve perdere la dimensione della verità e ritenere che nessuno sia più sapiente, nessuno più forte, nessuno più bello del suo sposo, deve provare piacere in tutto ciò che lo circonda, trovare buono e giusto ciò che lui fa o dice, perché questo è l'amore che viene richiesto da una moglie. Quindi se avete un compagno o un marito sappiate che stasera dovete comportarvi così. Lui è San Giovanni Crisostomo. La donna è male sopra ogni altro male, serpe veleno contro il quale nessuna medicina va bene. Le donne servono soprattutto a soddisfare la libidine degli uomini, perché Dio assegnò a ciascun sesso la sua funzione, così che la parte più utile e più necessaria all'uomo, la minore, è inferiore alla femmina, e quegli divenisse degno d'onore per il ruolo suo eminente, questa invece per gli uffici suoi più vili, lasciamola là, non pensasse ad alzare la cresta contro il coniuge. Ritorna al concetto di dominio. San Tommaso Apostolo, un bel personaggio, diceva questo, che noi siamo dei maschi mancati. Perché aveva studiato. Aveva studiato, aveva l'eredità di quello prima. E questo che è San Tommaso d'Aquino fa un passo in più. Ci dice che un feto maschile diventa essere umano in 40 giorni. Quello femminile in 80. Ieri sera dicevo, forse è per quello che gli uomini fanno una cosa alla volta, e le donne ne fanno due o tre. Comunque le femmine nascono a causa di un seme guasto e di venti umidi. E poi arriviamo a uno degli ultimi, che è San Paolo. L'uomo non deve coprirsi il capo, poiché egli è l'immagine e gloria di Dio. La donna invece è gloria dell'uomo. E infatti non l'uomo deriva dalla donna, ma la donna deriva dall'uomo. Né l'uomo fu creato per la donna, ma la donna per l'uomo. Per questo la donna deve sempre portare un simbolo della sua dipendenza. Qual è il simbolo della dipendenza? Il velo. Il velo, esattamente. Le mogli siano sottomesse ai mariti, come il Signore. Quello che invece lui non lo sa, ma nei secoli, soprattutto nel Medioevo, ed è una delle cose che ho studiato e che sto pensando metterò nell'altra serata che si chiama Donne controcorrente, le indomabili, è che il più grande commercio dei veli nel Medioevo era tenuto da donne di Palma di Maiorca, ed erano un gruppo di donne che vendevano i veli su tutto il bacino del Mediterraneo. Quindi avevano fatto di quel simbolo lì praticamente un business commerciale. Qual è il problema di fondo? È che il corpo delle donne fa paura. È un corpo che non si può controllare. È un corpo che genera. È un corpo che si manifesta. È un corpo misterioso. E questo tema del corpo che fa paura è un tema molto presente, no? Ancora adesso. Questa è una frase, un pezzo del Levitico. Quando una donna abbia flusso di sangue nel suo corpo, la sua immondezza durerà 7 giorni. Chiunque la toccherà sarà immondo fino a sera. Ogni giaciglio sul quale si sarà messa a dormire durante la sua immondezza sarà immondo. Ogni mobile sul quale si sarà seduto sarà immondo. Chiunque toccherà il suo giaciglio dovrà lavarsi le vesti e bagnarsi nell'acqua. Perché, come dice Sant'Ambrogio, venerato padre della Chiesa, Adamo è stato condotto al peccato da Eva e non viceversa. Quindi è giusto che la donna accolga come padrone chi ha indotto a peccare. Allora, ci sono due concetti. Uno è il corpo che è immondo. E guardate che vale, questo è Levitico. Io sono decisamente vecchia perché l'anno prossimo farò 70 anni, però mia mamma, quando avevo le mestruazioni, aveva tutta una serie di cose, no, che mi diceva: non toccare le piante perché muoiono, sì, non lavarti i capelli, perché non ho mai capito questa storia dei capelli da qua, là, comunque, vabbè, ma come posso, eccetera, eccetera. Quindi sono dei pensieri che ci siamo portati avanti per tantissimo tempo. E poi questo, perché tutta la derivazione in tutto quello che vi ho detto fino adesso, questo è, no? Nel Medioevo, questa è una miniatura del 1300, ovviamente le persone non sapevano leggere, ma vedevano le immagini, no? Un po' quello che sta succedendo adesso, no? Che siamo mai diventati un mondo visivo. E quindi la traduzione era: Satana è la donna. Chi leggeva faceva questo. D'altra parte aveva tentato Adamo, l'ha indotto al peccato. Quindi questo... associazione era abbastanza rapida. E questo è il Malleus Maleficarum, è il testo considerato cardine per la caccia alla strega, perché le streghe erano quelle che non si potevano controllare, no? Erano quelle che si occupavano delle nascite, erano quelle che avevano una competenza delle erbe, erano quelle che in qualche modo andavano controcorrente, no? E il Malleus è stato il testo fino al XVII secolo, più o meno metà, considerato proprio il cardine sia della Chiesa cattolica che quella protestante. Quindi non solo c'era il prontuario di come si riconosce una strega, ma soprattutto e purtroppo di come si poteva e si doveva farla parlare e come la si doveva uccidere. È il cosiddetto martello delle malefiche. Le malefiche sono le streghe. Anche femmina, viene da minore fede, fe minus, no? Quindi c'è tutta una sorta di disprezzo. Sto andando avanti un po' con gli anni, velocemente, però sono poche le donne. Se avete voglia di leggere un libro della Victoria Mars, Il ballo delle pazze, vi racconta, bellissimo, di che cos'era la Salpêtrière nel 1800. La Salpêtrière era il manicomio di Parigi, dove finivano, non finivano le pazze, no, la maggior parte... contraddicevano... C'erano le donne, c'erano le prostitute che non avevano un posto dove invecchiare, quindi finivano in manicomio, c'erano le ragazze madri, c'erano le donne che avevano deciso di scegliersi, di innamorarsi di un uomo più giovane, ma c'erano anche le donne che volevano aprire un commercio e questo andava contro natura, contro corrente, quindi venivano rinchiuse alla Salpêtrière. Quindi alla fine del 1800 erano circa 8.000 le donne che vivevano in condizioni estreme, dormivano in 5 in un letto, la maggior parte moriva morsa dai topi perché le loro celle erano praticamente attaccate alle fogne, quindi capite che c'era proprio di tutto e di più. La cosa che pochi sanno è che quando c'è stata la rivoluzione francese, i giacobini hanno aperto il manicomio, quindi loro per una giornata hanno pensato di tornare libere, in realtà sono state massacrate nei giorni seguenti, quindi non hanno neanche avuto la possibilità di vivere nonostante le abbiano liberate, ok? E poi arriviamo a loro, quindi i fondatori dello Stato liberale, il risorgimento, quello che deve essere un momento propulsivo anche delle idee, no? Però Rosmini, anche lui dice, insomma, compete al marito essere capo, alla moglie è un'accessione. Avete in mente un optional delle macchine? Cioè uno può scegliere se avere i finestrini. Ecco, un'accessione è un compimento del marito, ok? Le donne punite per adulterio, mentre gli uomini no. Questa cosa rimarrà per moltissimo tempo, eh? Poi lo vediamo anche nel fascismo. Che le donne che tradivano avevano una pena che partiva dai 2 anni in su di reclusione, gli uomini no, perché erano assimilati al concubinaggio, per cui potevano rimanere liberi. È scritto nel DNA, hanno questa tendenza. Hanno la tendenza, sì. Infatti, anche qui, potevano essere molto ricche, ma i beni automaticamente passavano al marito, quindi qualsiasi cosa vendessero o facessero avevano sempre bisogno dell'autorizzazione del marito, anche se il marito non possedeva nulla, perché i beni erano loro. Lui, Gioberti, questa è tremenda secondo me, la donna è verso l'uomo, cioè il vegetale verso gli animali, o la pianta parassita verso quella che si sostenta e si alimenta da sé. Brutta, no? Insomma, per secoli le donne si sono fatte, come dire, ripetere castità, umiltà, sobrietà, operosità, misericordia, ma soprattutto silenzio. Adesso vi ho messo alcune immagini che spero che vi arrivino, no? Questo è un dipinto del 1700, no? Le donne pregano sempre col velo, intorno a un tavolo, stanno zitte. Oppure queste, cosa fanno? Ricamano in silenzio, da sole, no? Trasmettono a una figlia quello che sarà il futuro. Questo è anche un bellissimo quadro, no? Il ricamo ha a che fare non solo con la concentrazione, ma anche col silenzio, con le quattro mura. E poi c'è un artista che a me piace molto, anche se è molto particolare, che è Amershoy. Lui è un pittore danese, c'è stata una bellissima mostra alcuni mesi fa a Rovigo. Lui dipinge queste donne di schiena, che sono, è sempre sua moglie, che non doveva essere molto felice secondo me, ma comunque, sì, perché non l'ha mai fatta di vedere il viso, quindi doveva essere un po' triste, ma lui riesce a raccontare attraverso i colori quello che è lo spazio della casa come uno spazio di solitudine e uno spazio anche di assenza e di mancanza di identità, perché le sue donne disegnate così, dipinte così, di schiena, non hanno volto. Ed è un po' quello, secondo me, che per molti secoli non hanno avuto le donne, non abbiamo avuto un volto. Certo, le donne andavano a lavorare nei campi, cioè le donne non si sono mai tirate indietro rispetto a quello che c'era da fare. Se pensate per esempio alla rivoluzione industriale, pensate che un mese fa leggevo una cosa che non sapevo, che mi ha veramente sconvolta. Le miniere, c'erano delle miniere in Italia, così come in Belgio e in Francia, dove le donne lavoravano, facevano un lavoro massacrante in fondo alle caverne, perché portavano i carretti con i sassi che gli uomini avevano tolto dalla miniera. Si sceglievano le donne perché? Vediamo se ci arrivate. Perché erano pagate meno. Brava, meno dei cavalli. Cioè era più producente prendere 2 donne che non un cavallo. Questa cosa è continuata fino ai primi del Novecento. O pensate a tutto quello che è stato la rivoluzione industriale, no? Pensate alla Milano della moda di oggi, si fonda su tutte le bambine, perché lavoravano nelle macchine tessili, le bambine dagli 8 agli 11 anni, che avevano quegli orari lì, d'estate e d'inverno, dalle 8 alle 23 e dalle 6 alle 24, lavoravano con quegli orari, ma nessuno dice mai che moltissime volte, siccome erano stanche, erano piccole, malnutrite, nella macchina ci finivano anche le dita di quelle bambine, per cui non solo rimanevano meno matte, ma poi non avevano più da mangiare, per cui finivano in una situazione di abbandono. Siamo ai primi del Novecento. E siccome siamo ai primi del Novecento, arriva lui. Lui è stato un uomo molto amato. C'era questa casalinga emiliana che gli ha scritto 800 lettere. Non so se lui le abbia lette tutte, ma sicuramente doveva avere una passione per quest'uomo. No? E qui per le donne è successo qualcosa. No? io ho sempre questo doppio cognome Beghini Franchini perché sono stata adottata a 50 anni. Le mie mamme adottive, erano due sorelle, mi raccontavano spessissimo di quello che facevano negli anni 20 grazie al fascismo. Cioè andavano fuori di casa. Cioè un aspetto, forse uno dei pochissimi aspetti positivi, era il fatto che le ragazze dai 4 ai 17 anni, le giovani italiane, cominciavano a uscire di casa per fare sport. Quindi avevano una, come dire, una conoscenza, una consapevolezza del loro corpo che fino a 10 anni prima era sconosciuta. Si trovavano con le coetanee, che era una cosa stranissima, e facevano gruppo. E questo è stato molto importante per molte ragazze. Così come delle massaie rurali, altra organizzazione, no? Erano praticamente le famiglie di proprietari terrieri, le donne che risiedevano in queste tenute, si trovavano anche loro, parlavano. C'era una, come dire, la costruzione di una rete femminile, importantissima. Poi vabbè, lo slogan era sane, robuste, feconde. Ok, la vedete nella foto. Anche perché, insomma, Benito diceva che la forza generativa, se l'uomo lavora, aumenta. Se la donna lavora, quella forza generativa lì diminuisce. Quindi è giusto che stiano a casa. È il manicomio, non l'ha fatto per la prima volta. Certo. Mm-hmm. E poi, comunque, le donne venivano escluse da quelli che erano gli insegnamenti della filosofia, della storia, no? Escluse dai ruoli di presidi. Possono arrivare a dirigere solo il 10% degli istituti professionali. No? E nonostante una delle ultimissime biografie che è uscita su di lui dica che ci racconta che Mussolini abbia avuto più o meno dalle 400 alle 500 amanti, io amo sempre però ricordare che almeno una è riuscita a dirgli di no. Ed è una persona che io un po' ho studiato e amo tantissimo, che è l'Anna Kuliscioff, spero che la conosciate. Non la conoscete. Anna Kuliscioff era una russa, scappata dalla Russia per problemi politici, è arrivata in Italia, ha cambiato nome, è diventata la compagna di Turati, bellissima, coltissima, le cronache ci dicono che quando lui è andato a casa sua è rimasto sconvolto dalla quantità di libri, pare che avesse già tentato di portarsela a letto, ma lei naturalmente non ci teneva proprio, è stata considerata il primo uomo socialista in Italia. E praticamente lei era un medico, era una ginecologa che voleva lavorare in ospedale a Milano, naturalmente le hanno detto di no perché era una donna, e lei ha fatto quello che voleva fare, ha aperto un ambulatorio per donne povere lungo i Navigli di Milano. Ancora adesso a Milano ci sono alcune strade intitolate a lei, e lei è diventata la dottora dei poiret, dei poveri. Nel suo ambulatorio lei, intanto lei aveva, tra l'altro, è stata la donna che è riuscita a risalire al microbo della febbre puerperale, per cui moltissime donne, grazie a lei, non sono più morte di febbre postpartum. E poi ha cercato tantissimo, anche essendo la moglie e la compagna di Turati, di passare la legge per il voto alle donne, ma non c'è riuscita. Però la cosa interessante è che lei nel suo ambulatorio ha sempre curato gratis tutte le donne che arrivavano, quindi le donne che dovevano abortire, le donne che volevano fare un figlio, le donne che stavano male. E c'è chi dice che Collodi, scrivendo il Pinocchio, per il personaggio della fata turchina abbia pensato alla Kuliscioff. Lui era talmente arrabbiato di questo diniego che non lo poteva sopportare. Lei è morta il 25 dicembre del 25, me lo ricordo perché è abbastanza facile, è morta abbastanza in fretta perché era malata. E lui, per vendicarsi di questo rifiuto, al suo funerale ha mandato le camicie nere a picchiare chi c'era al suo funerale. E le cronache dicono che le donne, tantissime donne che erano presenti al suo funerale, hanno fatto in modo di proteggere tutto il funerale, proprio nel ricordo di quello che lei aveva fatto. Insomma, anche perché poi lui aveva questo slogan qui, che le donne devono stare a casa, fare figli e portare le corna, questo era, no? Il mantra, d'accordo? Certo, vi dicevo che le donne lavoravano, anche se il loro salario era inferiore a quello degli uomini, appunto, se tradivano le pene erano maggiori, e pensate che le ho messe queste date perché noi ce le dimentichiamo, però il reato di adulterio è stato abrogato nel 68, quindi è pochissimo, no? Pensate al delitto d'onore, è stato abrogato nell'81. E poi le donne cominciano a lavorare durante la guerra, lavorano di più, prendono il posto degli uomini, fanno quello che fanno gli uomini, no? Pensate in Inghilterra, la London Transport licenzia le donne quando sono 10.000, mi pare, sì, 10.000, quando gli uomini ritornano, ma per tutto il periodo della guerra le donne hanno continuato a fare quello che facevano gli uomini, hanno lavorato nelle fabbriche, hanno fatto tutto quello che dovevano fare. E certo, cosa succede? Nel momento in cui le donne lavorano, come dice Maria Manfai in un libro molto bello che è Pane Nero, una volta che escono non vogliono più tornare a casa. Capiscono, no, non solo la ricchezza del soldo, ma capiscono la ricchezza della libertà, del poter stare con le altre, del poter parlare, del poter decidere della propria vita. E quindi anche a guerra finita non vogliono più tornare a casa. Ecco, io questo lo metto perché anche su questo secondo me noi sappiamo poco, no? Il gap, le donne che partecipavano ai gruppi armati partigiani sono state tantissime, veramente molto più di quelle che noi sappiamo. E voi dovete pensare che quando venivano prese, lo stupro era la cosa migliore che potesse capitare a loro. Se avete il coraggio di leggere, c'è un libro terribile che è I giorni di vetro, della Verna, della Nicoletta Verna, è un libro terribile perché è scritto con una ferocia pazzesca, però vi fa capire qual era quello, cosa capitavano alle donne che in qualche modo avevano combattuto come degli uomini, poi però erano finite nelle mani dei tedeschi o dei fascisti. E quindi queste donne sono quelle che hanno contribuito a fare l'Italia, no? Sono state riconosciute al pari degli uomini, al punto tale che nel 1946 finalmente hanno ritenuto e abbiamo avuto la possibilità di votare. Quindi io credo che sia veramente un nostro dovere riconoscerle. Io sono cresciuta un po' con questa roba qua. Comportati bene. Comportati bene perché così Gesù è contento, perché il papà non si arrabbia, perché la mamma è contenta, perché la maestra è contenta. Comportati bene. Poi non so cosa vuol dire bene. Se io dico a mio marito comportati bene, no? Se diciamo a un bambino, no? Comportati bene, è molto vaga questa cosa, no? Però andiamo a leggere cosa dice la Tearanno in Fuoco dentro. Anch'io certe volte mi sentivo come una bambola, perché le bambole non disturbano, non corrono su e giù per le scale, non si lamentano neanche quando stacchi loro una gamba o un braccio, non urlano o si arrabbiano neanche, non si arrabbiano neanche a una sfilza lunga di comandi, perché una figlia insegnata bene è un decoro per tutta la famiglia. La figlia. Allora, torniamo al punto di partenza. Se è amore o se è violenza. No? Noi sappiamo questo, sappiamo che è violenza contro le donne ogni atto di violenza fondato sul genere che provochi un danno, una sofferenza fisica, psicologica, sessuale, inclusa le minacce, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà. Articolo 1. Però sappiamo, questi sono gli ultimi dati di Istat, che sono 6 milioni. E 400.000 le donne dai 16 ai 75 anni che hanno subito almeno una violenza fisica nel corso della loro vita. E l'OMS ci dice che tra le donne tra i 16 e 74 anni, no, che tra le donne tra i 16 e 74 anni la prima causa di morte qual è? È il femminicidio. Non moriamo per cancro o per infarto, visto che stiamo raggiungendo il picco come gli uomini, moriamo perché ci fanno fuori. È la prima causa di morte. Allora, possiamo chiamarlo amore? Quali sono i sintomi di un amore dannoso? La paura di perdere la persona amata, tutti abbiamo paura di perdere chi amiamo, no? Ma c'è un quantità, quello che fa sempre la differenza è la quantità. Come diceva Paracelso, è la dose che fa il farmaco, fa il veleno. C'è un'ansia da separazione elevata, c'è una gelosia eccessiva e possessività e una dipendenza. Adesso ve la spiego un po' meglio. Posso avere un bicchiere d'acqua? Grazie. grazie mille. Comincia da qua intanto, da quello che noi sottovalutiamo che è la potenza delle parole. Enzo Bianchi ci dice che chi è violento con le parole è già un assassino. Le parole sono le prime armi sempre a disposizione per ferire e negare la vita di un altro. La violenza parte sempre con la parola. La parola ha una potenza incredibile. È da lì che poi, come dire, si sommano gli altri strati, no? E la prima parola, molto spesso, ovviamente, è un insulto. Stai zitta, cretina. Ed è un po' come se le donne alla prima, diciamo, alla prima offesa rimanessero un po' stordite. E normalmente, nelle donne che subiscono violenza, questa cosa qua rimane lì, cioè non reagiscono. Non dicono, beh, scusa, un momento, perché? È come se questa parola causasse un po' uno shock e non trovassero la modalità per reagire. Quindi cosa fanno? Normalizzano quel vocabolo lì. Il cretina viene in qualche modo metabolizzato e viene giustificato, ma sì, forse perché ho fatto, ho detto, eccetera. Sulla base di quello poi comincia il resto. Comincia la prima cosa, che è la lenta eliminazione dei rapporti. Guarda che stasera non vengo, perché non torno a casa tardi, perché mi fermo con Paola a bere un aperitivo. Con Paola? Perché devi andare con la tua amica? Ci sono qua io. Che bisogno hai di stare con le amiche? Io sono la tua amica, il tuo amico, il tuo uomo, la tua donna. Ti basto ben io. Le tue amiche non ti servono. Magari domani sera vado in palestra. Palestra? Ma a me piaci così come sei, amore mio. Mi piaci tantissimo come sei. Non hai nessun bisogno di andare in palestra. Vedo Francesca. Francesca, quella lì che si dà un sacco di aria. Ma come fai ad essere amica di quella lì? E voi dovete pensare che è giorno dopo giorno. Cioè è lentissima questa cosa qui, eh? E a questa cosa le donne purtroppo si abituano. No, scusate, ce n'era un'altra prima. I potenti mezzi. Eccolo qua. No. Il testo è diverso. Un po' uguale. Non è attenta. Solo l'immagine. E poi c'è quest'altra cosa, no? Le donne perdono il controllo della propria vita, lentamente. Non se ne rendono conto, perché il controllo ce l'ha lui. E questa roba qui fa sì che perdano completamente la propria autostima. E l'autostima, la perdita di autostima, determina una perdita di lucidità. Cioè le donne cominciano a chiedersi, ma sono io o è lui? No, sono io che forse l'ho frainteso. Sono io che non ho capito bene, capite? C'è tutto un lavoro su di sé, molto, molto sottile, e questa cosa terribile che è vivere sul filo del rasoio. Cioè le donne imparano ad anticipare e ad evitare tutto quello che può far scatenare, non soltanto l'attacco rabbioso, ma anche la critica, no? Quindi mettono a posto prima che lui arrivi, e si danno da fare a pulire prima che lui arrivi, perché pensano che così, eccetera, eccetera. Io sono la prima a dire, visto che ho lo stesso uomo da 48 anni, o sono una santa, o mi fanno una riduzione delle tasse, dico sempre, che la vita di coppia non è facile. Okay. E a volte si dice, no, nelle relazioni ti ucciderei, quando uno è arrabbiato. Okay. E ci sono delle strategie di rabbia, no? Io non amo fare ordine nel frigo, cioè amo fare la spesa, ma non amo mettere a posto la roba nel frigo. Per cui se sono un po' così, butto le robe nel frigo, sapendo benissimo che l'altro, quando arriva a casa, comincia a dirmi, è 40 anni che ti dico di mettere i formaggi sopra, è una cosa sì. A volte, lo so, perché lui ha ragione anche, no? Nel senso che uno apre e vede il caos. Però io forse lo faccio volutamente, non so come dire, mi piace, no? Fare un po' arrabbiare, no? Non so cosa mi dice, però ci sta, capito? È quello che diceva prima Francesca, una cosa è il conflitto, che ha a che fare con la relazione, no? Nel conflitto uno ci può anche stare, un'altra è la violenza, d'accordo? Vivere sul filo del rasoio per queste donne significa avere costantemente quella roba lì che si chiama ansia, che si chiama paura, cioè vivono così, con un respiro alzato, dico io, perché devono stare attente. Quindi voi pensate anche in termini di salute cosa significa. Lei non ha una vita propria, non ce l'ha, non ce la può avere. La sua vita è la vita di lui. E sono quelle donne che ogni discorso che voi fate con loro vi parleranno solo del partner. Lui dice, lui pensa, lui fa. Poi uno dice, ma scusi lei? Ah, sì, ma lui dice che io, lui pensa che io, capite? È tutto riportato a lui, non a loro. Ovviamente sono estremamente dipendenti dalla relazione. Quindi lei smette di prendere impegni con le amiche, non ci va più. E la schiena è un po' la casa è il suo tempio, perché lì in qualche modo, nel bene e nel male, lei si sente, non dico bene perché non sta bene, ma si sentirebbe peggio ad uscire, perché dovrebbe affrontare molte più situazioni. E i suoi interessi, casomai ne avesse avuti, diventano però gli interessi di lui. Quindi c'è una deformazione, no? E le donne pensano, non si rendono conto di questa cosa che è continua, che è sottile, ma pensano che sia una forma d'amore, perché in questo modo lui mi vuole tanto bene, mi vuole tutto per sé, non mi vuole dividere con nessuno. In qualche modo il fatto che lui voglia sapere tutto significa che vuole entrare tanto nella mia vita, perché ci tiene a me, cioè si giustificano tutta una serie di atteggiamenti. A me vengono in mente, ecco, una cosa che non vi ho detto, io mi sono occupata per 20 anni di violenza sulle donne e sui bambini, quindi qualche persona l'ho conosciuta, e quando arrivo qua mi viene sempre in mente una persona, era un avvocato, un'avvocata, e praticamente lei aveva un uomo, marito, che le mandava ogni giorno 35 messaggi, 35. Cominciava nel momento in cui lei usciva di casa e per durante il giorno li contava, erano 35. Ma quando è arrivata in terapia, è arrivata con l'idea che stava male fisicamente, non che le davano fastidio i 35 messaggi. Lei cominciava ad avere una depressione abbastanza seria, importante. E quando le prime volte io affrontavo il tema di coppia, lei mi diceva sempre questa frase, lui mi ama tanto. E lui diceva, ok, cosa vuol dire tanto? Faccio degli esempi. Guardi, 30 messaggi al giorno, 30 messaggi al giorno. Cosa le chiede? Ma se ho bevuto il caffè, con chi ho bevuto il caffè, cosa sto facendo, cosa sto pensando. E quando dopo un po' di anni lei è riuscita a separarsi, la cosa terribile che lui faceva, secondo me tremenda, la teneva sveglia di notte. Sapete come le torture giapponesi? Non la faceva dormire per 2, 3, 4 notti di seguito, con un interrogatorio di terzo grado pazzesco. Non aveva mai alzato una mano su di lei, ma vi assicuro che lo stato psichico di quella donna era come se fosse stata picchiata tutti i giorni. Quindi c'è un adattamento lento a lui, e questa sicuramente la conoscete, è un po' il ciclo della violenza, no? Comincia verbalmente, poi ci sono le provocazioni, le minacce, gli insulti, poi succede, è un po' quella che viene chiamata la fase, il ciclo della luna, no? L'uomo si pente, quindi chiede perdono, le donne normalmente ci credono, perché ognuna di noi ha un po' questo mito, una frase che poi ho messo alla fine, dell'io ti salverò, no? Era un bellissimo film di Hitchcock, ma in qualche modo l'idea della croce rossina, no? Se ti incontro a 20 anni e c'è qualcosa che non mi piace, il nostro pensiero onnipotente sbagliato è quello che io ti cambierò. Se tu stai con me io ti cambierò. Aperta la parentesi, peggiorerà, chiusa la parentesi soltanto, ma non cambierà se non vuole. Okay? E c'è una frase molto bella della Serena Daldini che vi ho messo alla fine, che dice, insegniamo alle donne non io ti salverò, ma io mi salverò, che è completamente diverso. Allora lui si scusa, seduce la donna, di solito fa regali, eccetera, eccetera, la donna lo accoglie, ci crede, anche se questa è la fase più difficile, perché la donna comincia a sviluppare il senso di impotenza, di isolamento, no? Di paura anche, però poi il ciclo purtroppo ricomincia. Queste sono le emozioni che le donne vivono. La prima è la paura, è quella che si vive così, quella che vi dicevo prima, no? Il senso di solitudine, perché difficilmente le donne raccontano quando non ne possono più, perché si vergognano. sostanzialmente, e poi perché pensano, questo è un nostro difetto, di non aver mai fatto abbastanza. Se qualcosa non funziona nelle relazioni, noi ce lo siamo la colpa, no? Siamo noi che dovremmo sforzarci di capire di più. E in questo c'è una perdita di lucidità, no? Non riuscire ad attribuire anche l'altro, all'altro, una parte di responsabilità, che sicuramente c'è. E poi questa cosa che pesa tantissimo è il passato. Cioè le donne che finiscono nei rapporti amorosi poco sani hanno sempre, quasi sempre, una storia di passato in cui hanno conosciuto in maniera trasversale la violenza. Magari non è stata una violenza fisica, è stata una violenza psicologica, è stata una trascuratezza, ma la conoscono già e non sono state vaccinate per questa esperienza, capite? Sono cresciute e quindi il rischio, non avendo avuto un vaccino, non avendo avuto una cura, è che finiscano in situazioni uguali. Ecco, vi leggo questo. Questo è un pezzo di un libro che stiamo riscrivendo. È un libro che è uscito 25 anni fa ed erano 8 donne che Pino e io abbiamo avuto in terapia, tutte con storie di violenza. Quest'anno abbiamo deciso di riscriverlo aggiungendo delle altre storie. Lei viene per un problema di coppia, un grave problema di coppia, pensa di separarsi, poi non ce la farà, ma questa è un'altra storia. Però la sua storia, a un certo punto, quando lei comincia a raccontarmi della sua infanzia, è questa. Non avevo ancora 4 anni quando mia madre si infilava nel mio letto, non per coccolarmi, ma per scappare e mettersi in salvo da suo marito. Ne avevo qualcuno in più quando imparai ad arrestarle il sangue del naso ogni volta che lui la picchiava senza ragione. Questa era la sua storia, no? E lei per anni si è trascinata questa storia e non avendo avuto, come vi dicevo prima, un vaccino o comunque una cura per questa sofferenza, lei è finita dentro una storia non maltrattante come era il padre, ma sicuramente in una relazione che non era sana per lei. Dentro questo problema, che è il problema della violenza sulle donne, c'è quest'altro problema che si interseca, che è la violenza sui bambini. Cioè la violenza assistita è quello quando due bambini hanno dei genitori dentro una grossa aggressività, una grossa forma di violenza. Cioè noi sappiamo che sono circa 500.000, ma la punta di un iceberg, perché sono sicuramente molti di più. Allora voi pensate a una donna che vive con questa paura e quindi evita e continuamente vive sul filo del rasoio. E dentro casa ci sono dei bambini che vedono e assistono e che quindi in qualche modo si nutrano di questa paura. Vivono con un cortisolo altissimo ed è quell'ormone che dà eccitazione, dà eccitamento. Per cui ogni volta che io vedo i dati dei bambini con disturbi di concentrazione, mi dico sempre: ma sono tutti bambini che hanno problemi di concentrazione? O sono bambini che hanno un'altra storia e rientrano in queste famiglie qui? Perché non è possibile. Cioè noi abbiamo un tasso di violenza altissimo, mascherata, meno mascherata, di cui purtroppo i bambini fanno le spese. E adesso ve li faccio vedere, alcuni bambini. Lui ha 6 anni, è il suo primo disegno. Non viene perché il suo padre picchia sua madre, ma è il suo primo disegno che mi fa. E per me è più che sufficiente. Mi disegna una casa che prende fuoco, ma un padre che è sicuramente minaccioso e una madre con uno sguardo tremendo che fa di tutto per tenere in piedi quella casa lì. Lui racconta a suo modo il dramma e se voi vedete è un disegno molto regressivo, è un disegno fermo, perché i bambini quando vivono queste cose qui non possono crescere. Tutta l'energia ce l'hanno per tenere testa a questa roba qui che sta succedendo. Guardate anche questo. Questo è ancora peggio, secondo me, per certi versi. Suo padre, lui lo fa in mezzo, disegna la sua famiglia. Non ce la fa neanche a guardarlo una volta che l'ha messo sul foglio e lo cancella. E poi riesce però, per come fa lui, come sa lui, a scrivere che quel papà lì è cattivo. Ma la cosa che a me stupisce di più è lui come si è disegnato. Provate a vedere lui, è quello di destra. Lui fa la cosa che fanno tutti i bambini nelle sue situazioni. Si mette un bavaglio. i bambini non dicono quello che succede dentro casa, i bambini sanno mantenere i segreti in maniera pazzesca, molto più di noi, e poi amano profondamente i loro genitori e quindi li difendono sempre. Però qual è il problema grosso? Questi sono i bambini che stanno bene, per fortuna, sappiamo che quelli, ma lo metto per farvi vedere la differenza, cioè questi sono più piccoli degli altri, perché gli altri hanno 6 anni e questi ne hanno 5, però questi sono bambini che stanno bene, no? Lui fa l'ingegnere, costruisce mattoni, lei invece è una femmina, costruisce in relazioni, no? Nel sociale. Questi stanno bene, gli altri no. Ma i bambini di prima hanno questo problema enorme. Intanto hanno la paura di perdere i genitori, entrambi, ma anche se stessi. L'altra cosa è che si sentono assolutamente impotenti in quella roba lì. È troppo grande, non sanno che cosa fare. Alcuni si inseriscono nei conflitti, no? Ci sono dei bambini in certe situazioni che attirano la rabbia del papà purché lui in qualche modo non si rivalga sulla mamma. Però in linea di massima sono impotenti, si ritengono sempre responsabili, no? Ricordo un bambino che mi diceva: se i miei litigano è perché io non sono bravo, se io non ci fossi loro non litigherebbero. C'è un'assunzione di responsabilità nei bambini che è altissima. Ma dal mio punto di vista la cosa peggiore sono le ultime due. Intanto considerano normale quella roba lì che vedono, la normalizzano, e poi imparano e fanno confusione che quella cosa lì è amore, capite? Quindi costruiscono un'idea della relazione affettiva che è sfalsata, che è tremenda, no? Pensano che uno che si chiama si comporti così. Non so che ore sono, non so da quanto è che parlo, ma vi vedo, resistete due secondi. Ok, allora questa è una frase che io metto sempre, che è quella della Alda Merini, e che dice: mangerete polvere, cercherete di impazzire e non ci riuscirete, avrete sempre il filo della ragione che vi taglierà in due, ma da queste profonde ferite usciranno farfalle libere. E poi quella che vi dicevo prima è questa: insegnare alle donne non tanto io ti salverò, ma io mi salverò, no? Una centratura che sia sul sé, non sull'altro. Non riesco a farvi vedere questa cosa, forse, no, non ce la faccio. Avevo quel video sulla chiavetta, non so se riusciamo a metterlo. Facciamo, è un problema, vero? Non facciamo, va bene. Io avrei finito. In realtà c'è un post che è questa, perché l'ho vista la settimana scorsa a Roma, a Palazzo Barberini, e mi piace troppo, e siccome tu non sai la sua storia, te la racconto. Lei è Beatrice Cenci, al di là del fatto che è un dipinto stupendo, che è stato attribuito da sempre a Guido Reni, ma in realtà non l'ha fatto Guido Reni, l'ha fatto lei, che si chiama Ginevra Cantofoli. Quindi riconosciamo Cesare perché è Cesare, o la Cantofoli quello che è suo, perché è Cesare, no? Lei era figlia di un notissimo commerciante fiorentino, Cenci, famiglia Cenci nobilissima, che dall'età di 10 anni, 12 anni è stata molestata dal padre. A 22 anni, 20 anni, 21 anni, lei decide, d'accordo con la madre, di uccidere il padre perché non ne poteva più. La matrigna, uccidono il padre, però lei viene condannata a morte. Questo è... No? Ecco. No, la storia non la sapevi. Ecco. Va bene, grazie ancora comunque. Grazie. Poi se avete domande sono qua. Posso chiedere una cosa? Certo. Quanti sono gli uomini violenti che decidono di farsi aiutare? Cioè, come media? Ah, questo non lo so. Non lo so. Io penso però che bisognerebbe cominciare a pensare, non so cosa ne pensi tu Francesca, abbia delle prescrizioni quarte. Sì, bisognerebbe, perché in realtà non sono, io non ho le statistiche sotto mano, ma non sono tantissimi. No, e quindi ci sarebbe bisogno, insomma, di una prescrizione in effetti, così come lo è l'allontanamento, così come lo è l'obbligo di distanza, sì. Che non funziona. Parlavo proprio l'altro giorno con una collega della Questura di Milano, dico collega perché in una delle mie vite precedenti facevo la poliziotta. E lei mi diceva che anche questa storia dei braccialetti elettronici è ridicola, perché le persone che hanno il braccialetto elettronico devono caricarlo, e quindi la questura telefona alle persone X chiedendo loro: ma avete caricato il braccialetto elettronico? E immaginiamoci quanti sono così attenti, già ci dimentichiamo di caricare il cellulare, immaginati quando sai che il braccialetto elettronico è una fonte di controllo che ti impedisce di determinati movimenti, se ti ricordi delusamente o colposamente di non caricarlo, di caricarlo, insomma, in funzione di quelle attività che vorrei fare tu. Per cui ci sono tantissime cose che non funzionano. Non credo che chi non voglia, costretto a fare una pratica, diciamo, di questo tipo, la farebbe con entusiasmo, però forse una percentuale potrebbe anche cogliere degli aspetti che fino a quel momento non ha colto. O perlomeno la percezione, non sono sempre convinta che funzioni, ma sarebbe un tentativo da fare. Sì, in alcuni paesi, per esempio, il coatto è riferito alla possibilità di, come dire, togliere dei soldi dallo stipendio. E quindi tu vai, ok, lo stipendio ti viene garantito, se non vai però, e quindi ci sono delle soluzioni. E l'altra cosa, però, pensavo che forse non vi ho detto, ma che trovo che sia fondamentale, è tutto il discorso educativo che è importante. Certo, ma anche il fatto stesso, la cosa che lo trovo gravissima, quando c'è una situazione di violenza, il marito viene allontanato, perché deve essere la donna a dover abbandonare la casa, dover essere messa in una casa famiglia, nascosta coi figli, e lui se ne gira tranquillo? Ma cioè, c'è proprio la base, tutto sbagliato, alla base. Certo, però le ripeto, io credo che dobbiamo cominciare dalla scuola, a insegnare ai bambini dai 5 anni in su che cos'è la relazione, no? La Spagna fino a 10 anni fa era in testa come femminicidi. La Spagna ha fatto un lavoro di prevenzione a tappeto, al punto tale che adesso sono 3 posti dopo di noi. Noi siamo più o meno come la Francia e altri paesi. Ma il problema non è tanto, non è solo il femminicidio, il problema è la violenza trasversale, capito? Ed è su quello che dovremmo impegnarci nei prossimi anni. Cambiare completamente modalità. Sì. Però posso chiedere? Ma chi sono queste donne che si lasciano, così, che si lasciano uccidere? Credo che nessuno si lasci uccidere. Ma non, che sopportano queste violenze? Insomma, sono le nostre figlie, sono le nostre nipoti. Cioè, chi sono queste donne che sopportano questa cosa? Ce ne sono? Ce ne sono, sì. Ce ne sono perlomeno 110 fino ad ora. E anche alla donna che bisogna educare, fra virgolette. È quello che sto dicendo, no? Nell'educazione e nelle scuole bisogna insegnare che cos'è la relazione affettiva e che cos'è per le ragazze, per le donne, quello che facevamo prima, Manuela, che cosa significa, no, essere amati o voler amare, che cosa significa il rispetto di sé e dell'altro. No? È questo che... perché si è perso, no? Si sta perdendo. Le sembra strana questa cosa? Sì, la donna che adesso lavora, la donna che ha rapporti, che non è la casa, non è la donna di una volta che stava in casa 24 ore su 24 e passava sopra tutto passava sopra la sua testa. Adesso la donna è partecipe, insomma. Ma non c'è soltanto il discorso della libertà economica. E allora mi chiedo, chi sono queste donne che sopportano? C'è addirittura un ritorno, nel senso che le statistiche sui ragazzi vedono un incremento di ragazze che percepiscono come normale il fatto che i loro fidanzati controllino il cellulare, e che percepiscono come normale uno schiaffo per un comportamento che il loro compagno ritiene inadeguato. Questo è un dato in crescita rispetto a 10 anni fa, e questo fa stupire, insomma, in qualche modo. Qualcuno lo collega all'impatto dei social media e quindi proprio una mancanza di un certo tipo di educazione e di relazione. Sì, anche di empatia, no? Perché poi è questo il punto. Cioè, lei pensi al fatto che ancora oggi le statistiche ci dicono 4 uomini su 10 pensano che se una donna non vuole un rapporto sessuale ha tutte le strategie perché questo non avvenga. 4 su 10, non è poco, eh? Allora, c'è proprio bisogno di fare un cambio. Vorrei dire invece che avanzare. Ah sì, per certi aspetti sì. Insegnare anche a saper dire di no. Le nostre ragazze devono imparare a riconoscere anche e dire no e avere l'autostima, la sicurezza per poter dire di no. Non si vede a scuola, cara collega. Lo so. però il riconoscere di dire no parte anche da una percezione di sé di un certo tipo, da un'idea di sé che abbia un valore, capisci? Allora, negli ultimi, scusate, non è che voglio dar la colpa a tutto questo, però negli ultimi 15 anni ci troviamo con degli adulti, quanto tempo passano sui social, su uno smartphone? L'altra sera parlavo dello sguardo, cioè i bambini stanno praticamente perdendo la capacità di guardare negli occhi le persone adulte. Io parlo di genitorialità attraverso 20 dipinti per spiegare ai genitori che questa roba qua bisogna recuperarla. Cioè lo sguardo è quello che caratterizza l'umano, è quello che fa quando una madre tiene in braccio un bambino, dà al bambino l'idea di esistere, io esisto perché tu mi guardi, io sono vero, vivo nella relazione perché tu ci sei e in questo momento mi riconosci. Ma se questa roba qui prende il posto dello sguardo, voi capite cosa stiamo facendo. È questo che sta succedendo e su questo purtroppo dovremmo cominciare a tornare indietro, riprenderci quel pezzo di umano, ma delle relazioni anche, no? Buongiorno, buonasera, come sta? O no? Cioè torniamo indietro per piacere, perché non possiamo andare avanti così. Cioè lasciare il posto agli altri qualche volta, chiedere come stai, come va, cioè ritrovarci ad essere umani, perché altrimenti veramente siamo destinati a scomparire. Cioè questa è l'ultima, secondo me, di una serie di cose che stiamo perdendo. Non faccio quell'espressione così contritta. Sono delusa perché non concepisco, cioè, metti che sono stata fortunata, metti che vado da cos'è Sant'Anni che avevo con mio marito. Naturalmente mi sono... Anche lei la medaglia, però a un certo punto si trova un modo di convivere anche con le idee che sulla torta dei 50 anni qua c'era scritto praticamente incompatibili, questi vogliono bene, perché siamo veramente incompatibili. però si trova sempre un modo di vivendi, certo, senza la violenza. C'è una relazione sana, qui non c'è. Perché c'è una perdita, le ripeto, c'è uno sbilanciamento sull'altro, non su me, non tanto su quello che voglio io, ma quanto quello che lui vuole. Capisce? Allora la preoccupazione è sempre devo fare quello, oppure non tanto devo, ma sento che devo fare questa cosa, no? Ed è una, come diceva prima Francesca, è uno sbilanciamento di potere molto forte. Mi sembra strano, ma purtroppo i dati sono questi. Le donne dovrebbero essere molto sveglie, insomma, più attente. Sentite, continuiamo a sentire, non è così semplice. Siamo qui a parlare di come le donne dal Medioevo e dall'Adamo ed Eva sono sempre state sottovalutate. E qui sento solo interventi che dicono però le ragazze potrebbero, ma io non capisco come faccia la moglie. No, ragazzi, ma allora va tutto bene? Allora siamo ancora qui che diciamo dobbiamo cambiare. L'ha visto? Ha visto che non va bene. No, ma lei sta dicendo che è sempre un discorso delle donne, non ma che ancora le donne dicono che dipende dalle ragazze, che dipende da noi, come facciamo a sopportare. Stiamo dicendo, succede, le sopportano, i mariti hanno il braccialetto e loro non glielo ricaricano mica con la batteria. Che lui dice lui non lo dice ricarica, ma neanche lei lo fa. Allora ancora una volta dipende dalla donna. No, la signora, ma se uno ha il braccialetto, la donna è a sì, ho capito, Se lo deve ricaricare lei, perché sennò se lo deve ricaricare lui, ecco, lasciamo. Se dovessero andare dai carabinieri, da una donna a sapere cosa deve fare il marito con il braccialetto, io penso che questa donna che ha una carabiniera che gli dice signore il braccialetto si deve caricare il marito, lei la guarda negli occhi e fa ma sa che io sono venuta qui perché il marito mi picchia e pensa che io posso sperare che sia il marito che si ricarica il braccialetto. Non avete mica delle soluzioni da darvi che non mi rendano ancora responsabile, che dopo dicano ma lei lo lascia venire in casa, ma lei gli fa... Cioè, quasi siamo le prime noi che andiamo a trovare dov'è il nocciolo della questione, dove la donna non si è data abbastanza da fare. Sono, sì, non prego, so se... c'è un uomo. Adesso oh. Non vorrei, vista la... Diciamo che è minoranza, ecco. Non vorrei apparire un infiltrato. No. Però, purtroppo, no, volevo stare zitto, ma non ce so di attirarmi tutte le ire delle pazienti. Quello che secondo me le donne, no, continuano a fare l'errore è che, come tutti i riferimenti che sono stati fatti finora, addirittura che riguardavano Platone, riguardavano antichi greci, che sono, diciamo, comunque un faro per tutta la... il pensiero occidentale, la scolastica, cioè la religione, così, no? Allora io mi domando, e questa è un'accusa che faccio a tutte le donne, perché dimentichiamo al giorno d'oggi che la Costituzione italiana non ha più questo genere di differenza? Nella Costituzione italiana non c'è alcuna differenza di genere. Allora, questo per dire, e sembra aggressivo, e lo capisco e chiedo scusa, perché le donne non riescono a fare questo salto di qualità, di essere le prime a pretendere che la Costituzione italiana venga rispettata? Cioè, primo, c'è stato un riferimento alle forze dell'ordine, no? Io so benissimo che nelle forze dell'ordine ci sono delle persone encomiabili che io mi butterei del fuoco, però ci sono anche tante situazioni dove non sono all'altezza. Perché le donne non pretendono che ci sia questo genere di efficacia da parte delle forze dell'ordine? Allora, lasciamo perdere questo, eliminiamo. Poi, un'altra cosa, un'obiezione politica. Perché tante donne al giorno d'oggi votano partiti? Calmare, perché, ma siccome io sono più femminista, forse almeno al livello di qualunque persona che sia qua, tra l'altro ricordo che tutto il movimento femminista deve ringraziare certe personalità maschili, ok? Ve lo dico, anche se tutte probabilmente voi lo sapete, che ci sono stati uomini che hanno dato la vita per migliorare la situazione delle donne. Lo stesso fatto che da poco sia stata eliminata dal codice penale il delitto dell'onore, la stessa cosa, sono state dovute a tanti uomini che si sono dati per tutta la loro esistenza al sistema femminile. Allora io mi domando, ma perché ancora oggi ci sono donne che votano in certe situazioni contro certe libertà delle donne? Cioè, riusciamo a capire che c'è anche una differenza politica nel femminismo o no? Un'altra cosa, e è l'ultima, riusciamo a capire che certe situazioni e prese di posizione della religione, adesso noi abbiamo nominato certe cose che riguardano il passato, per fortuna, della Chiesa Cattolica Romana, io sono della Stazione Cattolica, metto il primo posto, tutto quello che riguarda il Nuovo Testamento, e quindi non sono per niente... però riusciamo a capire che ci sono al giorno d'oggi, per esempio, nella Chiesa Ortodossa persone che oggi, nel 2025, parlano della donna in termini come noi parlavamo quando c'erano la scolastica o San Tommaso oppure Sant'Agostino. Queste cose che riguardano la cultura, riusciamo come donne... Per un attimo, vedetemi come donna, anche se sono positivamente molto... Come donne, riusciamo a capire che è questo che noi da sole ci danneggiamo o no? E questa è una domanda, e poi chiedo scusa se per carità sono stato offensivo della suscettibilità femminista. Ma siccome io mi considero più femminista, o comunque uguale femminista, pur essendo stato un marito, avendo subito una separazione, sapendo benissimo che quello che dicevamo degli uomini che si separano, le donne che si separano, guardate che la questione economica non è secondaria, attenzione, perché noi parliamo di separazione degli uomini che non fanno il loro dovere, così, però ricordiamoci bene che noi dobbiamo pretendere come donne, ripeto, mi faccio finta di essere una donna, che ci sia la possibilità per una donna, no, di non dipendere economicamente da nessuno, e questo non avviene. Quindi tu, quando ti separi, se sei figlio, se sei moglie di un libero professionista che ha certe caratteristiche, che dichiara meno di te di quello che guadagni, sei un uomo. Se sei in un'altra situazione, hai delle circostanze per le quali un uomo viene incentivato all'aggressività. Adesso io vi dico, queste situazioni le conoscete o no? Scusi, ma lei sta facendo una confusione che la metà basta. Mi scusi se glielo dico, non si può fare un ragionamento del genere, assolutamente. Intanto non è vero niente che le donne stanno lì a subire e non lottano per i cambiamenti. Perché se lei legge i giornali, legge anche i settimanali, ci sono una marea di donne che si stanno ribellando e stanno dicendo cambiamo le leggi perché le leggi non funzionano, tipo il braccialetto elettronico non funziona. Perché a volte riescono anche a toglierselo, e anche se dicono che è una cosa impossibile, invece è stato fatto, è stato tolto a una persona. Quindi lui se ne andava in giro per la città tranquillo ed è andato a minacciare di nuovo la sua ex moglie, la quale l'ha denunciato di nuovo. Quindi non è vero che le donne non fanno niente, poi non è che si può adesso fare una confusione come ha fatto diverso, lei. È diverso, vediamo per... molto diverso dire che non fanno abbastanza a dire che non fanno niente. Lei ha detto che le donne stanno qui, perché non vi svegliate? Scusi, cambiare le leggi non è mica una cosa che lo fai dall'oggi al domani. Non pretendere che vengano rispettate quelle attuali, sì. Se posso dare un tentativo di risposta diciamo, alle sue indicazioni, non è sempre facile ottenere quello che si desidera, perché per esempio per quanto riguarda le questioni economiche sappiamo del cosiddetto gender pay gap, e quindi il raggiungimento di un'indipendenza economica, che come suggeriva il signore è uno dei punti fondamentali che garantiscono la libertà di espressione, di movimento e di esercizio delle proprie, dei propri diritti, non è spesso così semplice, perché quando c'è una maternità fra le due persone, se il gender pay gap fa sì che come negli anni X, ancora oggi nel 2005 c'è una differenza di retribuzione fra gli uomini e le donne, che a parità di incarico l'uomo guadagna di più inspiegabilmente, è chiaro che se c'è una maternità in corso, chi rimane a casa? Quella che guadagna meno, quindi la moglie. Quindi la moglie, se ritorna a lavorare, ritornerà col part-time, perché comunque dovrà prendersi cura del figlio, e quindi anche la pensione avrà tutta una serie di abbassamenti rispetto a quello che invece è una normale retribuzione, una normale pensione di una persona, diciamo, di sesso maschile. E questo chiaramente ha delle implicazioni sulla libertà di movimento delle donne. Quindi c'è questo primo aspetto, diciamo, che è tra virgolette risolto, nel senso che è un dato di fatto che le donne guadagnano meno in Italia, in Europa e in tutto. Quindi lei adesso potrebbe darmi semplicemente l'esempio di una donna che ha portato avanti, perché io sono d'accordo con lei. Quindi lei adesso potrebbe forse non fosse più informati su questo argomento, darvi l'esempio di una parlamentare che ha portato avanti un tipo di legislazione o una proposta affinché questa differenza diminuisca. Ce ne sono tantissime, giusto? C'è una marea. Ecco, come mai non ha avuto effetto? Perché io sono d'accordo con lei, riconosco anche delle leggi che hanno parificato perlomeno nel pubblico questa situazione, in realtà poi quindi questa differenza politica, sì. Lei la può condividere con me, no? Perché io non ho detto che non ci sia, io dico solo che c'è questa incapacità di voi arrivare da parte delle donne. No? È una dimensione che ha fatto sì che purtroppo, per la stessa disparità di potere di cui si parlava prima, purtroppo chi decide. Ma per la Costituzione italiana non c'è questa disparità. La Costituzione strana. Italiana è del 1946, anzi del 1948, per cui abbiamo 2000 anni di storia, senza contare con i precedenti, in cui la storia ci ha insegnato anche a noi donne ad essere in un certo modo. E la questione del famoso patriarcato non è una questione che riguarda il genere maschile o il genere femminile, è una questione trasversale ai generi, e questo significa che sia le donne che gli uomini possono avere determinati comportamenti che hanno diciamo, il fondamento, e alcune donne anche sono così, sono, diciamo, cioè, finché voi vi aggrappate al patriarcato, che per la Costituzione è stato eliminato. Allora, diciamo subito con dire che se io lascio parlare lei, lei deve lasciare parlare me, e quindi questo è un tipico esempio di patriarcato, se possiamo dirlo, in cui... Ma non lo potete il maschilismo col patriarcato. Io accetto che lei mi accusi di maschilismo, di prevaricazione, ma non di patriarcato. Grazie. Anche in Parlamento ci sono più uomini che votano, non è mica tutto quanto quello che viene fuori, che dicono così, in modo aperto. Gli uomini possono dire delle cose pubblicamente, ma quando sono là a votare sono 45 contro 12, e no, 45 sono di più. È interessante quello che dice lei. In qualunque posto gli uomini sono di più. È una vita che è così, adesso cambiare tutto in poco tempo, stiamo facendo, ma ci stiamo dicendo, stiamo attenti, perché è una cosa difficile, molto, ce ne sono tante, e non ce n'è, a volte lo facciamo così, senza accorgercene. Bene, io vi ringrazio per l'ascolto e la partecipazione e vi rimando ai nostri prossimi appuntamenti, conferenze, presentazioni di libro e gruppi di lettura. Grazie a tutte e a tutti. Buona serata.